apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Confesso che l'ho appreso soltanto ieri, ma questa è una mia trascuratezza, una mia gravissima lacuna. Il fatto che oggi sia il primo sciopero nazionale degli stranieri non è per me particolarmente rilevante ai fini di questa trasmissione, che avevamo già pensato da qualche giorno. Leggo sui giornali, questa mattina saranno iniziative tutta Italia, si colorerà di giallo, gli stranieri scenderanno in piazza. Sono quelle cose che naturalmente avranno una loro giustificazione, un loro modo d'essere. Non trovo, sinceramente, se mi è permesso di esprimere un irrituale modestissimo parere, che la maniera per essere integrati o per sentirsi anche nel proprio paese, se è quello di scendere in piazza già con una bandiera di diversità. Oggi è lo sciopero degli stranieri, uno sarebbe tentato a dire, ma vediamo quanto ci faremo male questa sera a vedere questa cosa. Ma fa parte delle tante nuove colorazioni di cui bisogna prendere atto. Le istanze politiche e sociali si stanno variegatamente colorando. Esiste un nuovo arcobaleno per chi appartiene a un'era arcaica come chi parla in questo momento, in cui i colori erano pochi, basici e ben definiti, deve abituarsi a queste nuove sfumature. Oggi è la giornata del giallo. Ma in realtà noi avevamo un'altra idea questa mattina, per questa mattina, e come tale ve la poniamo. Chi ha l'esperienza di avere bambini nelle scuole materne, elementari, anche medie, si renderà conto che il problema sentito con livore, con tensione, con contrapposizione ideologica delle differenze fra immigrati e popolazioni autoctone è naturalmente e placidamente superato dai nostri figli quando, sin dalle prime classi di scuola, si trovano vicino bambini di tutte le etnie possibili e immaginabili, dei quali non fanno assolutamente nessuna differenza per la differenza di caratteri somatici, di origini, di abitudini. Li vedo molto tranquilli, molto sereni. Io sono abituato, sin da quando i miei figli andavano alle elementari, di vedere bambini di tutti i tipi. Ricordo le prime festicciole a casa, questi bambini che portavano la meraviglia, il divertimento della diversità di costumi, di indole, di abitudini sociali, di tradizioni culturali e via dicendo. Andando avanti poi nel crescere, nell'evolversi, nel maturare, nel salire di grado scolastico, mi rendo conto che poi figli degli immigrati, nella maggior parte dei casi, sono quelli allevati con maggior rigore, sono quelli i cui genitori sono molto all'antica nella gestione dei loro risultati scolastici, sono quelli che sanno di non avere un'altra chance, sanno che lì si giocano tutte le carte, sanno che la velocità del loro progresso nel conquistarsi un posto nella società sarà data dal rigore della loro attenzione scolastica, e quindi molte volte sono degli esempi difficili da emulare dal punto di vista dell'applicazione dello studio anche da parte dei nostri ragazzi. C'è un autore, uno scrittore e un insegnante, che si è preso la briga di mettere assieme alcuni temi, componimenti, pensieri, riflessioni dei bambini immigrati che lui via via nei suoi 25 anni di carriera di insegnante è riuscito a conoscere e avere come allievi. Questa mattina dedicheremo, partendo dalle testimonianze di questi bambini, la puntata all'osservazione soprattutto di chi è genitore, di chi ha figli a scuola. È una trasmissione molto limitata e molto parcellizzata. Chi non ha questa esperienza probabilmente può soltanto esprimere un parere, ma non sa esattamente qual è il polso della situazione. Io ho espresso un mio punto di vista, perché sono pronto a rivedere, a risovrascrivere, a confrontare con le esperienze di altri. Avete dei ragazzi a scuola, soprattutto nei primi anni dell'istruzione elementare? Avete osservato, osservate o sapete qual è il rapporto che hanno i vostri ragazzi con i ragazzi stranieri, immigrati, diversi radicalmente, solo al colpo d'occhio sono diversi? Beh, cosa accade a scuola? Qual è il rapporto che hanno i bambini? Vi siete mai posti poi il problema di come questi bambini guardino noi, vedano noi? In Italia tanta gente guarda un programma della TV dove ci sono dei ragazzi e delle ragazze che sono chiusi in una casa per tanto tempo e mangiano e dormono insieme e si innamorano. È come una prigione, però tutti li guardano. Io ho visto che le mamme italiane quasi sempre fanno meno figli delle altre mamme che non sono italiane. Io non so perché. Forse perché non hanno voglia. Forse perché hanno delle altre cose da fare, come andare in palestra, lavorare, ballare, divertirsi. Sheila, 10 anni, Sri Lanka. 800 24 00 24, una prima impressione di un bambino che guarda la televisione e che osserva con perplessità il Grande Fratello reality show. Poi su questo vorrei entrare ancora più nel particolare. Certi forum televisivi ormai sono comunemente diffusi, fanno parte dell'amnios in cui viene allevata gran parte della figliolanza in varie parti del mondo. Esiste anche il Grande Fratello africano, esiste il Grande Fratello latinoamericano, esiste il Grande Fratello asiatico. Quindi probabilmente questo bambino è stato completamente immerso nella nostra realtà educazionale televisiva senza avere strascichi di memoria culturale di quello che era il suo paese. Un'altra differenza con gli italiani è il mangiare. Buddha dice non mangiare mucca. Allah dice non mangiare maiale. Gesù invece dice mangia tutto. Amir, 11 anni, Marocco. Gli italiani sono brava gente, però per me delle volte sono un po' troppo agitati. Delle volte loro urlano troppo, per esempio quando fanno gol alla partita. Loro sono bravi a cantare, ma non tutti. Poi a scuola alcuni bambini italiani ti vogliono baciare, che tu non sai neppure chi sono. Sana, 6 anni, Albania. Altro momento a volte tragico per i nostri ragazzi è quello della giornata del menù etnico. In molte scuole a Roma succede, almeno poi non so se in altre città d'Italia, voi confermatemelo, c'è questa apertura del menù etnico, quindi una volta a settimana si mangiano cose che i ragazzi non sono abituati a mangiare. Per qualcuno un divertimento, per qualcuno una scoperta, per qualcuno è il giorno della tortura settimanale. 800 24 00 24, i vostri bambini, i nostri bambini e i bambini degli emigrati assieme a scuola, qual è il punto di vista? Una volta a scuola abbiamo imparato a cantare l'inno nazionale e a me faceva ridere perché sembrava la musica del circo. Emil, 10 anni, Romania. Gli italiani sono educati, però anche loro mangiano la pizza con le mani. Ndidi, 7 anni, Senegal. Giuseppe Calicetti, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe Calicetti è maestro da 25 anni, autore del libro che ho accennato in apertura, Italiani per esempio, l'Italia vista dai bambini immigrati, edizioni Feltrinelli. Questa raccolta di piccoli componimenti, questi qua sono compiti scolastici o sono, diciamo, dei pensieri che lei ha raccolto e poi messo assieme? Il lavoro è stato fatto soprattutto sulla lingua orale, più che testi scolastici, si tratta proprio di dichiarazioni, frasi rubate, dichiarazioni, conversazioni fatte in classe. Ecco, quali sono i temi, i campi in cui è maggiore la curiosità? Perché questi esprimono, è la prima volta probabilmente che ci sentiamo osservati, siamo sempre abituati a essere noi gli osservatori e segnare le differenze, segnare le cose che non ci convincono o quelle che ci affascinano. Per la prima volta, proprio dall'occhio dei bambini, che è l'occhio più disincantato e anche l'occhio più sincero, quello che è privo di filtri, privo di ogni tipo di prudenza, capito? Ecco, quali sono i campi in cui veniamo osservati più attentamente? Uno mi sembra proprio quello del cibo, che è un momento fondamentale per i ragazzini. Sì, ma veniamo osservati un po' in tutta la nostra vita quotidiana e soprattutto scolastica, veniamo osservati soprattutto nella televisione che abbiamo e nei nostri piccoli comportamenti, perciò appunto questo libro dà l'opportunità di metterci per una volta dalla parte degli altri e per vedere come ci guardano tra l'altro questi altri sono bambini, appunto, che come tu ricordavi non hanno assorbito la loro cultura nel loro paese, alcuni sono nati addirittura qui in Italia, e perciò sono ancora più puri nel loro sguardo. Loro ci dicono, per esempio, il libro ha tante cose, anche quelle che ho sentito nelle registrazioni che avete fatto. Ci insegna però soprattutto la relatività. I bambini, non so, dal punto di vista fisico, gli albanesi dicono gli italiani sono come gli albanesi. I bambini neri ci dicono invece gli italiani sono bassi. Ecco, già questa piccola cosa ci fa capire che dipende tutto dal punto di vista in cui noi ci guardiamo. Interessante questo, perché per la prima volta il punto di paragone è diverso da quello che è il nostro standard fisico, di abitudini, di comportamenti. Veniamo visti come dei piccoli tappi dai ragazzini africani, probabilmente per la loro etnia, per la loro struttura fisica, saranno già snellissimi, altissimi rispetto magari ai problemi di obesità che hanno i nostri figli. Ecco. O semplicemente guardano i loro genitori, che sono più alti dei nostri. Un papà africano, senegalese o congolese di solito è più alto o di un papà italiano, e dicono, perciò concludono, gli italiani sono bassi. E ci sono poi altre cose legate soprattutto al cibo, legate alla religione. Per esempio, un bambino dice il Papa è una persona che ho visto alla TV, dice che ama tutti, però lui non è sposato, per cui come lui è un singolo, dice, perciò si interroga su questa figura che però non fa famiglia, diciamo. Ma è chiaro, che è chiaro nel suo ordine di riferimenti, non fare famiglia è una gravissima lacuna, non è concepita l'idea del celibato, è qualcosa che non appartiene alla sua cultura, deve essere per lui comunque una conquista di comprensione, non necessariamente di condivisione, ma di comprensione. Sì, poi c'è tutto questo discorso invece sulla TV italiana, che loro guardano o preferiscono le loro TV. È vero quel discorso che un format come il Grande Fratello sì, c'è ormai per tutto, da tutte chiaro. Le parti, però è vero che loro, non so, a 6 anni non è che hanno visto la TV, non so, a 3 anni il Grande Fratello marocchino, se esiste. Perciò in un certo senso vedono con, non so, vedono per esempio i bambini arabi, ma non solo, vedono con un certo stupore le due veline di Striscia la Notizia, si chiedono che ci fanno queste due che sculettano. Vabbè, dovranno anche farci un po' l'abitudine, perché adesso onestamente fa parte anche della libertà di espressione, che in fondo è il grande valore, e che c'è con tutti i limiti che possono esserci nella nostra civilizzazione. Ma per carità, non è che i bambini facciano i moralisti, non è che in questo senso. Infatti un bambino, per esempio una bambina araba, dice molto semplicemente: in Italia c'è più libertà perché le donne possono andare vestite con il velo, senza velo, oppure andare nude. Allora è chiaro che non lo dice senza nessun discorso di giudizio, però c'è questo sguardo che, ripeto, ci viene restituita un'immagine anche di noi stessi, che secondo me anche come italiani ci può essere molto utile per riflettere su noi stessi, sui nostri bambini. Ma io trovo che sia utilissimo anche perché i bambini a loro volta sono già un gradino contaminato rispetto anche certi integralismi dei genitori o certe logiche, attenzioni e convinzioni che uno si porta dietro quando è immigrato, e molte volte sono la sua salvaguardia e il suo conforto. Quindi osservare questa linea smarcata e sfumata di due mondi che vanno a collimare è il vero punto di attenzione, non sono poi le rappresentazioni ideologiche delle differenze. Sentiamo un attimo qualche ascoltatore. Hamid, buongiorno. No, Ahmed. Ahmed, scusi, mi hanno scritto Ahmed, chiedo scusa, mi hanno scritto Ahmed. No, non fa niente, sono un ascoltatore abituale di Melo. Sì, Ahmed, dimmi Ahmed. Io penso che i bambini si integrano subito. Tu Ahmed, scusa, mi dici esattamente provenienza, dove vieni? Ma io vengo dal Marocco. Sì. Quanti anni sono che stai in Italia? Più di 20 anni. 20 anni, quindi ormai i tuoi figli praticamente hanno assorbito, come ogni altro bambino italiano, tutto quello che è possibile assorbire. Assolutamente sì, io su questo sono d'accordo con lei, perché mia figlia è tranquilla, mangia con i bambini. Ma se mi dai del lei, devo darle del lei anche io. No, va bene, se vuole, le do del lei, non lo so. No, mia figlia è non ha problemi comunque a integrarsi, non ha nessun problema, lei è italiana a tutti gli effetti. Ma come vede gli altri bambini? Solo per capire che è interessante l'operazione che ha fatto Caliceti, perché è molto interessante vedere i bambini. I bambini sono l'esito dei genitori, ma fino a un certo punto, sono quelli che hanno le antenne più dritte, capiscono l'aria prima dei genitori. I tuoi figli lo capiranno prima di te qual è la maniera migliore per entrare in contatto. E i miei figli lo capiranno molto meglio di me qual è la maniera migliore proprio per trovare linee di felice integrazione, ma integrazione nel senso di arricchimento reciproco, questo è il fatto. Sì, però io non sono d'accordo col professore, se non sbaglio, è un professore, giusto? È un insegnante scolastico, Giuseppe. Non sono d'accordo con l'insegnante scolastico dal punto di vista che i bambini si integrano velocemente, a differenza degli adulti, i bambini non hanno problemi a integrarsi. È vero che c'è pressione dei genitori magari che dicono che la nostra cultura è così, ma però i bambini si integrano tranquillamente. Ecco. Ma io penso quel senso naturale e anche salutare poi di reazione nei confronti degli schemi dei genitori, quando avviene nei figli degli immigrati è il momento in cui anche loro mettono in discussione quello che sembra incrollabile. Oggi siamo, gli italiani sono molto spaventati dagli integralismi, ma io sono convinto che nelle nuove generazioni gli integralismi troveranno delle maniere di felice convivenza nel rispetto della libertà di ognuno di esprimersi come vuole. Flora, sentiamo Flora, buongiorno. Buongiorno, niente, io ho sentito prima che dicevate, no, che diciamo i genitori stranieri costringono i bambini di studiare, che è l'unico modo di inserirsi. No, costringono, hanno quel rigore che non ricordavamo dei nostri genitori, sta parlando un vecchietto di oltre 50 anni. Però io dico, è giusto così, perché ognuno deve dare il suo, il massimo di potenziale che ha su sta cosa, non mi pare... Non è molto chiaro però, guardi, nella media delle famiglie italiane non è che sia un concetto così diffuso, così applicato, il rigore nello studio da parte dei figli. Ma perché il soggetto, per esempio, qui in Italia, è quel soggetto... Lei Flora è straniera? Non ha studiato, lei Flora è straniera, lei Flora? Sì, io sono straniera, sono dalla Albania. Albanese, sì, da quanti anni sta qua? Sono dal 97 che sono qui. Anche se non ha studiato, il soggetto qui è capace di andare avanti nella società. Quindi per me è una cosa bruttissima, una cosa che proprio non, per me non è valido, diciamo. Beh, è chiaro, quando viene portato un mega fanta calciatore al Festival di Sanremo che dice che ha letto un libro in vita sua e è fanta miliardario, giusto perché fa il calciatore, perché è un lavoro remunerativo. È chiaro, io non voglio fare il moralista, lungi da me, io spero che i figli poi acquisiscano strumenti di lettura della realtà autonomi, guai imporre ai figli dei rigori oltre la natura, la tollerabilità naturale dei figli di farsi da sole le proprie esperienze. Poi devo dire che onestamente la vulgata è che se sei furbo ce la fai, se riesci a trovare il trucco per fregare gli altri ce la fai, se riesci a valorizzare quello che per te è più facile mettere su piazza ce la fai. Io quello che ho notato nei compagnetti di scuola dei miei figli ai tempi facendo elementari, che esiste ancora quel rigore, quella sorta di senso di necessità etica di farsi valere nel campo dello studio, perché sarà la base su cui costruirai il tuo futuro. Noi abbiamo un po' dimenticata questa cosa, su questo me ne faccio per primo ammenda, sentendomi anche per la mia parte responsabile. Sullo studio, però mi pare la base, uno deve avere tantissime altre strade, per carità, non posso dire, però io non posso dire, pronto? Sì, l'ascolto. Non posso dire che arriva quella mamma vestita bellissima, tutta marca, no? Ha lo stesso figlio, il figlio solo perché è marcato, non studia, è il numero uno anche dai insegnanti, tra virgolette, con tutti sì, esiste, guardi. Capito? Io non sono nemmeno però un propugnatore del pauperismo come valore. Se la mamma vuole andare firmata, se lo può permettere, ben vada firmata, fa parte del suo diritto di esibire la propria rozzaggine estetica se vuole, o la propria capacità d'acquisto. A me non interessa e non ho un pregiudizio contrario nei confronti delle mamme firmate. È vero che esiste a volte una sorta di leccaculaggio istintivo da parte dei professori nel gratificare le persone che hanno degli status sociali più elevati o più evidenti. Caliceti, so che te ne devi andare, molta fretta, vediamo se alla base di dopo queste due telefonate riesci ad aggiungere qualcosa della tua esperienza. Sì, allora voglio dire intanto a Flora Io devo dire che come insegnante proprio elementare c'è nei bambini stranieri, perciò nei genitori stranieri, questa idea ancora che la scuola ti può servire, lo studio ti può servire. C'è nei genitori stranieri questa idea di dire: io sto facendo fatica, se tu studi forse per te la vita sarà meno difficile. Ora c'è un impegno che è quella che avevano i nostri nonni, i nostri padri forse quando venivano a scuola e ci mandavano a scuola noi. Sì, è un'idea anni 50, io me la ricordo come tale, infatti. Esatto, cosa che non c'è adesso in tutti i genitori italiani, dove prevalgono altre cose, dove la scuola non è considerata come una cosa che ti può dare una svolta nella vita. Senti, invece, Calicetti, ti posso chiedere uno strappo alla regola? So che tu devi adesso, finita la ricreazione, rientrare in classe, ma se tu tieni il telefonino con te, altri 5 minuti dopo la pausa per le notizie a borsa, sì, me li dai? No, ho tempo. Ah, tempo, perfetto. Sì. Melog 2.0. Io non ho la pelle bianca, è vero, ma non ho neanche la pelle nera, perché la mia pelle è marroncina. I negri hanno la pelle nera e io non sono negro, sono arabo. Il colore della mia pelle è diverso da loro e un po' diverso anche dagli italiani. Secondo me, se il colore era nero, era peggio. Omar, 9 anni, Marocco. L'Italia è una terra ricca. Purtroppo però ci sono tanti ladri, violentatori di donne e bambini, mafiosi e altre persone poco raccomandabili. Tamu, 12 anni, Burkina Faso. 800240024, queste avete sentite, sono dichiarazioni di bambini stranieri immigrati colte, raccolte, segnate ed annotate da Giuseppe Calicetti, che le ha raccolte in un libro, Italiani per esempio, l'Italia vista dai bambini immigrati, edizioni Feltrinelli. Vedo anche su Facebook, anche se devo dire con scarsa attenzione, non è un tema che appassioni il popolo della rete, anche se mi leggo oggi che il grande sciopero giallo nasce da un gruppo di Facebook, questi gruppi spontanei che nascono dalla rete, in questo momento mi stanno anche abbastanza tartassando la mia persona per certe vicende locali accadute in seguito a mie dichiarazioni, ma non sto a entrare più nello specifico. Vedo che poi quando invece vai a portare il problema in rete se ne sbattono un po' altamente, non è qualcosa che solletica la voglia di aggregazione del popolo della rete. Comunque Danilo Maso Masotti, che è un grande, che a Bologna ha fatto la raccolta degli Umarels, che gli Umarels sarebbero quegli anziani pensionati che con le braccia conserte dietro la schiena si fermano e osservano gli operai che rabberciano il fondo stradale, hanno sempre qualcosa da dire su come si faccia o su come non si faccia. Danilo Masotti è andato un giorno al parco John Lennon con la figlia di 2 anni e mezzo, si è accorto di essere lui lo straniero, essere lui il diverso. L'unico borderline con la figlia era lui, Masotti. C'erano soltanto un Umarel e il nipote che stava lì, si teneva il nipotino, una signora di 75 anni e un'altra nipotina, e poi c'erano tutte donne straniere con i figli, con i bambini, con le cose, ma anche a Piazza Vittorio. Se uno va la domenica a Piazza Vittorio, che è uno dei luoghi più romanissimi, almeno nella percezione dei romani storici, si trova a essere l'unico straniero in mezzo a delle persone che hanno delle loro omogeneità. Si vedono gli stranieri, i marocchini, i cinesi, le donne russe, tutte radunate in un angolo. Ci si rende conto che in realtà essere e sentirsi straniere molto facile anche nella terra in cui si è nati. E sentiamo Susi, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, io sono una ragazza peruviana da 15 anni in Italia e ho fatto 2 bambini, uno di loro va alla scuola, la prima elementare, scusi l'emozione. No, non si emoziona, non mi fa piacere, vedo che non me ne ero mai accorto. Uno dei segni dell'integrazione è che un programma radiofonico popolare è così ascoltato da stranieri. Non è che vi ho cercato, ma vedo che chiamati a raccolta, evidentemente c'è una partecipazione fortissima di persone che vengono da paesi lontani. Questo mi fa piacere. Prego. Io lo sento tantissimo tutti i giorni, veramente. E che impressione le fa? È una radio molto, molto interessante, molto culturale più che altro. Ma che impressione le fa? No, mi fa piacere cosa ne può pensare Susi, che viene da un posto così lontano, di quello che diciamo noi ogni giorno, scelleratezze, sconcezze, anche cose che fanno tremare nelle loro grisaglie tanti signori per bene. Niente, dicevo, no, che mia figlia si trova benissima, si è inserita alla scuola e si trova molto bene. Adesso inizierò con l'altro bambino che inizia la scuola materna e E ma cosa le racconta, cosa le racconta sua figlia dei suoi compagni di scuola? Vengono mai a casa? Li invita mai a fare festicciole, a studiare? Ecco, studiare ancora non si studia molto. Sì, ancora è presto, no? Più avanti, quando, perché hanno cambiato scuola e i bambini sono nuovi, stanno conoscendo. E più che altro io direi le mamme sono delle persone un po' particolari. E i bambini, fra bambini, stanno benissimo. Sono le mamme che ancora non si rendono conto che il tempo passa. Sì, lei ha problemi con le altre mamme? Ha problemi con le altre mamme? Sono le mamme che non ci guardano, cioè non si salutano. Sono pochissime le mamme veramente stupende. Cioè fanno un po' le stronze, diciamo la verità, è questo, Susi, tradotto in italiano corrente. Non ho capito, mi scusi. No, non voglio infierire. No. Dicevo, se hanno un atteggiamento un po' stronzeggiante, non so se conosce il senso di questa parola. Sì, quello è vero. Ecco. Molte volte l'ho detto anch'io. Vabbè, non c'è sono delle... Sono delle stronze, vabbè, pazienza. Guardi, è giusto che lei sappia e si abitui che ne incontrerà tantissime, sua figlia ne incontrerà ancora di più quando crescerà, quando poi comincerà a conoscere veramente le sue compagne. Devo un attimo passare la parola a Caliceti, perché l'avevo trattenuto oltre la ricreazione e non vorrei abusare del suo tempo. Giuseppe Caliceti, come vedi questa apertura di mamme immigrate che improvvisamente entrano in una trasmissione radiofonica come se fossero ascoltatrici da sempre? Ma devo dire che mi fa molto piacere e penso che sia importante rendersi conto che sono italiane e sono tra noi, non sono persone invisibili. Volevo aggiungere qualcosa rispetto a quello che diceva Mede e anche Susi. È vero, secondo me nessuno di noi nasce razzista, i bambini non sono razzisti. Di fronte al diverso, alla diversità, l'atteggiamento prevalente dei bambini non è la diffidenza come avviene per le mamme o la paura indotta da media pilotati, possiamo dire, o da partiti politici in Italia che stanno facendo dell'odio e del razzismo una loro identità. Però perciò voglio dire che il razzismo, sono d'accordo con loro, tra bambini piccoli non c'è. Dopodiché c'è una fase, 8, 9, 10 anni, in cui la televisione entra dentro prepotentemente nel cervello dei bambini e dove sono esposti a questo elettrodomestico pericoloso, più di una lavatrice, come dice Mario Lodi, più di un forno. Io non sono molto d'accordo, devo dirtelo Caliceti, questa demonizzazione della televisione mi sembra un po' un appoggiare responsabilità. Però guarda, non è la rispetto il tuo punto di vista. Io dico il mio punto di vista e non parlo di tutta la televisione, parlo di un certo tipo di televisione. Allora, in questo momento, secondo me, noi abbiamo comunque gli adulti intervengono quando i bambini crescono di più, e ha ragione Susi, nel senso che la mamma per proteggere il figlio tende a dividere. Ora, come si fa per vincere il razzismo? Secondo me l'unica strategia è quella che noi dobbiamo far vivere i bambini nelle loro diversità, tutte le loro diversità economiche, razziali, fin da piccoli insieme. Se già li dividiamo, li prepariamo a promuovere il razzismo, ma non solo, soprattutto come adulti dobbiamo dare un esempio. L'esempio è quello che io non posso soltanto predicare e dire è bene voler bene a tutti, stare con tutti. No, io voglio un padre, una madre che frequentano bambini disabili e genitori che hanno bambini disabili, che invitano alla festa di compleanno della figlia italiana anche la bambina marocchina, che quando vanno a fare la pizzata delle mamme tutte quante insieme invitano anche la bambina, la mamma e il papà del bambino arabo. Se noi come adulti non diamo un esempio di integrazione ai nostri figli, promuoviamo il razzismo. Questo sistema funziona perfettamente quando c'è reciprocità. Se c'è reciprocità sono perfettamente d'accordo, anzi è la più bella lezione. Non possiamo nascondere a certe latitudini, in certe città, in certe situazioni esistono humus umani molto, molto problematici in cui è molto difficile anche mantenere questo senso di grande apertura, e questo però fa parte della cronaca, questo per essere sempre solo su un piano teorico. Però io dicevo, nella situazione diciamo di normale scuola italiana, non in una situazione drammatica, problematica, ci sono tensioni dove interi quartieri sono espropriati da etnie straniere che trasformano in ghetti delle aree delle città, e questo è molto brutto, non è colpa di nessuno, è colpa di tutti, o non voglio entrare in merito a di chi siano le colpe. Io sto parlando di una situazione media, non per sfuggire alle responsabilità, ma questo era il senso. Una media scuola italiana oggi ha una percentuale altissima di ragazzini di etnie diverse dalla nostra fra i compagni di classe. Come ci si comporta in questo caso? Qual è l'atteggiamento? Quando uno esce non è che ha il problema di sentirsi assediato, poi è una città normalissima, una vita normalissima, ma in questi comportamenti che dice Calicetti si vede veramente il senso di una sedimentata e acquisita civilizzazione, di quella serenità, di quella tranquillità e di sicurezza dei propri punti di riferimento, il proprio modo d'essere, che ci permette di comportarci così. Sentiamo velocemente Andrea. Andrea. Pronto? Buongiorno signor Nicoletti. Ecco Andrea, anche lei è albanese. Sì, io vorrei portare un attimino la mia esperienza, perché avendo due figli piccoli che vanno in scuola paterna, uno di 6 anni e uno di 4, ecco, il mio problema casomai sarebbe un po' al contrario. Oltre all'integrazione perfetta, insomma, dei miei figli e un po' anche della mia famiglia, è che i miei figli non mi parlano proprio l'albanese, insomma, ecco. Al suo problema che non gli parlano più albanese? Questo è il mio problema, anzi, abbiamo passato, stanno qua, li portiamo un mese e mezzo, due lì, così almeno non perdono la lingua d'origine, insomma, tutto qua. Lo so, questo è un problema, è chiaro, un problema che tutti gli immigrati hanno avuto questo problema, lo ebbero gli italiani nei grandi flussi migratori dei secoli passati, e lo avranno anche gli albanesi. Poi, qualcosa si guadagna, qualcosa si perde, questo è chiaro, è normale, fa parte del processo di osmosi, quando ci si mischia con qualcos'altro, qualcosa del proprio si perde. Un altro aspetto che insomma vorrei anche dire un attimino è anche per quanto riguarda all'istruzione. Io sono d'accordo con quello che si dice, che per poter emergere in una maniera abbastanza positiva per noi, almeno per noi no, ma per i nostri figli, è proprio quello di poter studiare il più possibile, per poter avere tanti chance in più di quello che magari possono avere dei loro coetanei italiani che magari... Quindi avevo visto giusto, mi scusi, avevo visto giusto Andrea, quando avevo avuto questa... era una mia lettura, una mia supposizione, che in realtà i genitori dei bambini immigrati hanno come chiodo fisso, come principio assoluto, quello che bisogna studiare per farcela meglio e avere minori difficoltà in futuro. Ma il consiglio che do tante volte alla mia nipote, che ha tanti anni in più, le dico: siamo venuti qui noi a lavorare, invece tu devi studiare tanto per non fare la fine che facciamo noi, lavorare tutti i giorni per poter avere un futuro un po' migliore di noi, insomma, ecco. Bene, grazie. 800240024. Mi diverte questa trasmissione perché finora ho tutti ospiti che sono immigrati o stranieri, quindi questo dà un'idea meravigliosamente cosmopolita anche delle sconcezze che ogni giorno dico a Melog. Melog 2.0. Gli italiani, secondo me, almeno alcuni, sono un po' troppo perfettini. Invece gli immigrati sono meno perfettini e si accontentano di più. Ada, 10 anni, Camerun. In Italia ci sono due re. Un re è Berlusconi, l'altro re è il Papa. Berlusconi comanda l'Italia, il Papa comanda gli italiani. Lili, 9 anni, Cina. 80024, punti di vista di bambini stranieri raccolti da Giuseppe Caliceti, Italiani per esempio, edizioni Feltrinelli. Silvia, buongiorno. Buongiorno, io chiamo da una realtà molto di provincia, ancora parecchio contadina, e quindi non abbiamo il problema delle grosse città. Quale realtà si può sapere, Silvia? Certo, io le telefono dalla provincia di Vercelli. Di Vercelli. Quindi qui molti emigrati, anche perché la coltivazione del riso ne attira molti, per noi sono personale specializzato. Non ci sono più le mondine di classica memoria. Che sono scomparse. No. Però molte persone, per esempio dell'estremo oriente, che qui però risultano appunto personale specializzato. Costa molto meno la vita rispetto alle grandi città, quindi rispetto per esempio a Torino, che molti vengono qui e sono facilmente abbastanza integrati e tutto. Il problema che noi però vediamo a scuola, io glielo dico come genitore, come rappresentante di classe e come consiglio d'istituto, perché sono anche nel consiglio d'istituto, sono un genitore di quegli italiani perfettini, come diceva la fanciullina di prima, è che molto spesso, che non però, è un limite, dobbiamo anche avere il diritto limite, di poter essere perfettini. È una consapevolezza che bisogna anche prendere, perché è una constatazione. Anch'io sono abbastanza perfettino, chi mi guarda pensa sia un maniaco, ma ecco, molto spesso però magari teoricamente certo i genitori apprezzano lo studio dei propri figli, il problema è che molto spesso, o perché fanno fatica a seguirli, perché loro stessi magari non hanno questa padronanza della lingua o anche proprio delle nostre forme matematiche o di qualunque altra cosa, molto spesso sono, come direbbe il maestro con cui parlava prima, nella metà classe che va da metà in giù, non hanno purtroppo dei buoni risultati a scuola e molto spesso questo non li aiuta assolutamente dopo, cioè paradossalmente spesso sono più integrati i genitori dal punto di vista scolastico, prettamente scolastico. Lei di che scuola parla? Scuola media, superiore? Io le parlo di elementari e medie. Elementari, ma le medie. Elementari e medie, quindi siamo proprio nel ciclo basilare purtroppo. È vero, per carità, sono integrati nel senso che al parco giochi non ci sono problemi, in piazza quando c'è la festa non c'è nessun problema. Sono qui abbiamo anche persone proprio anche di colore che vengono da tutte le parti del mondo, però a livello scolastico l'integrazione è decisamente pessima. Vediamo se, visto che ho degli ospiti tecnici, perché lo fanno di mestiere, se riesco a fare un passo avanti. Non, il punto della mia trasmissione era vedere gli italiani visti dal punto di vista dei bambini, ma siccome abbiamo sollevato un problema che ha avuto conferma del maggior rigore che viene richiesto molte volte dai genitori ai figli, i genitori immigrati ai figli, perché capiscono che la loro possibile evoluzione, il loro affrancamento da una situazione subordinata è proprio data dallo studio. Lei mi dice che invece in altre realtà, in realtà probabilmente con degli specifici molto particolari come quella della zona del Vercellese, in realtà sono il peso morto della classe, come accade, la parte che deve essere più seguita, e quindi immagino che rallenti anche il progresso scolastico degli altri. Ho al telefono Paola Martano, buongiorno. Buongiorno. Che è insegnante di sostegno, si occupa di politiche scolastiche. Lei, Paola Martano, riesce a darmi sinteticamente qualche spiegazione dal punto di vista di questa signora? Guardi, la questione naturalmente quando parliamo di scuola è sempre estremamente complessa. Chiaro, sono delle approssimazioni che noi facciamo, me ne rendo conto. E ovviamente bisogna fare dei distinguo. Negli anni negli anni della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, l'integrazione dei bambini è più semplice perché chiaramente i bambini apprendono la lingua con molta facilità in una condizione protetta, mentre invece il problema si acutizza e diventa di difficilissima gestione dalle medie alle scuole superiori. Se lei va ad analizzare la presenza dei ragazzi stranieri nella scuola superiore, capisce immediatamente dove il baratro si crea. E qual è il punto di caduta? Il punto di caduta è la lingua, la conoscenza della lingua. Noi in Italia abbiamo una norma per cui i ragazzi, quando arrivano in Italia, vengono inseriti nelle classi in base all'età anagrafica, a prescindere dalle loro conoscenze. Lei comprende che se io inserisco un bimbo di 3 anni nella scuola dell'infanzia, questo bimbo apprende naturalmente la lingua e quindi segue un percorso facilitato, perché la lingua consente a loro di sentirsi all'interno del gruppo. E questa riflessione, guardi, nasceva anche dal libro di Caliceti, che proprio nelle prime pagine riporta con la parola accoglienza le sensazioni di una bambina egiziana che mi hanno colpito in maniera particolare. La bimba dice: io prima avevo paura di non parlare, di non imparare, poi non sapevo se le maestre e gli altri bambini e le bambine mi volevano o no. Il punto focale è proprio questo. Se noi non offriamo ai nostri ragazzi che arrivano da altri paesi lo strumento della lingua per avvicinarsi ad apprendere e studiare, ma li buttiamo nelle classi e aspettiamo che questa cosa avvenga senza che essere guidata, lei capisce che man mano che gli anni passano, soprattutto intorno ai 14-15 anni, questi ragazzi abbandonano la scuola. Probabilmente la situazione della signora Di Vercelli, che ha sott'occhio i bambini che vengono già dal loro paese d'origine, già strutturati, diciamo, in qualche maniera nei loro strumenti linguistici, e quindi rimangono nella parte bassa della classe. Non sono i bambini nati in loco, che quindi sono allevati assieme agli altri bambini, hanno un uso e una padronanza lingua. dicete rispetto a quello che dice Paola Martano, che ho scoperto lettrice del suo libro? Sì, beh, concordo. Bisogna dire che è una cosa abbastanza tecnica. Succede che i bambini da piccoli subito apprendono la lingua, poi c'è un momento di rilassamento che avviene quando sanno parlare e interagire con gli altri. Di qui a imparare il linguaggio specifico delle discipline, dopo va a finire che alcuni ci mollano. Ora, la verità però è questa, e su questo ci tengo a dirlo anche con forza: una politica come quella che adesso esce fuori dal ministro dell'istruzione, che oltre a fare i tagli su chi deve appunto formare e aiutare i bambini stranieri, sulla lingua, che come diceva l'insegnante è fondamentale, una politica del merito unita a un taglio delle spese vuol dire promuovere il razzismo nella scuola, perché se io sono una mamma italiana, sì, progressista. Però mi scusi, Lancetti, quello che non perché voglio svicolare, ma diventa un'altra, sì, trasmissione questa. A me in questo momento non è che della politica scolastica, no, non posso portarla a 5 minuti, no, non voglio svicolare, ma infilarci sempre tutto significa che non si arriva a un punto. No, rientro semplicemente nella cosa. Perché manca un po' di minuti. Il linguaggio è fondamentale. La lingua, noi non dobbiamo solo insegnare ai bambini una lingua d'uso, come avviene adesso, per andare a farli diventare bravi consumatori, a comprare le cose, come fa adesso la scuola, bene, anche la scuola dell'obbligo, ma bisogna che questi ragazzi, quando diventano ragazzi alle medie e alle superiori, siano seguiti perché il loro lessico si ampli e non si trovino di fronte a quel baratro linguistico in modo specifico di cui parlava la docente di prima. Grazie Caliceti, grazie Paola Martano, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato e sono intervenute, grazie a Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.